Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto. Chi non ritorna in mente immediatamente il titolo e l'autore di questo brano? Un po' più difficile recuperare nei file della nostra memoria l'anno e il titolo dell'album, e uno sforzo in più richiederebbe ricordare il nome dell'arrangiatore. Ma se volete tentarci, intanto buongiorno dalla vostra Nicoletta. Oggi misureremo la nostra abilità nel farci tornare in mente luoghi, persone, numeri, date, appuntamenti, ma anche parole, profumi, sapori. Qui in studio con me il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Asso Mensane, docente di scienze umane presso l'Università Statale di Milano. Bentornato. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, noi oggi vogliamo offrire l'opportunità ai nostri ascoltatori di fare una sorta di tagliando per testare le proprie abilità mentali, quindi memoria, concentrazione, attenzione, ragionamento, perché tutti noi quotidianamente ci misuriamo con piccole defiance della memoria e spesso accusiamo una certa stanchezza che limita un po' anche la nostra prontezza nel ragionamento e a volte spegne la creatività. Allora, oggi vorremmo individuare il nostro punto debole e capire cosa possiamo fare per recuperare, come possiamo dire, efficienza. Allora, oggi possiamo lavorare sulla nostra memoria, ma non vogliamo limitarci a questo, vogliamo infatti anche provare a lavorare sul linguaggio e sul ragionamento. Quindi è veramente una palestra a tutti gli effetti. No? Possiamo visualizzarle, ci sono gli attrezzi per il potenziamento muscolare, quelli che allungano i muscoli, e noi faremo questi tre laboratori. Professore. Nicoletta, e qui in redazione lei mi fa fare una bella ginnastica mentale con tutti questi argomenti. La stendo, insomma, le mando il cervello in fumo. No, memoria, linguaggio e ragionamento sono abilità molto importanti, ma in relazione al tipo di vita che facciamo, ai compiti che siamo chiamati a svolgere, è possibile che una di queste competenze sia più importante delle altre. Magari per me è più importante il linguaggio, per lei il ragionamento o magari la memoria. Ognuno di noi effettivamente si specializza in funzione del lavoro che svolge, per cui diventiamo più abili in alcune funzioni cognitive rispetto ad altre. Per cui, come diceva lei, un giornalista sicuramente ha delle abilità di linguaggio che sono normalmente superiori alla media rispetto ad esempio ad un medico che ha altri tipi di esigenze rispetto ad un idraulico, eccetera. Sicuramente tra le funzioni più importanti annoveriamo la memoria. Certo, la memoria ci serve per sopravvivere. Ricordiamoci che evolutivamente l'essere umano ha utilizzato questa risorsa per poter ricordare quali sono i pericoli e quindi le minacce da evitare. Senza memoria non abbiamo identità, senza memoria non c'è storia, senza memoria siamo esposti ai pericoli. Ma la memoria nel corso del tempo è cambiata. Mentre una volta bastava ricordare delle semplici informazioni, teniamo conto che una persona di 50 anni che ha vissuto 100 anni fa ricordava nel corso della sua vita tante informazioni quante ce ne sono oggi contenute in un giornale, in un normale quotidiano. Oggi la straordinaria quantità di informazioni che ci raggiunge invece ci sprona a ricordarne molto di più. Questo ha fatto sì che nel corso di questi decenni la nostra memoria ha cambiato atteggiamento, nel senso non è più deputata a ricordare tutto o a ricordare tanto, ma a ricordare dove si trovano le informazioni, quindi raccoglie gli indirizzi piuttosto che i contenuti. I contenuti invece che noi tendiamo a ricordare sono quelli che ci servono magari nel lavoro, nella pratica quotidiana, eccetera. Per tutto il resto ricordiamo dove li abbiamo visti. Allora, abbiamo molto da fare, professor Iannoccari, direi di andare per step e quindi iniziamo dalla memoria. Ci vorrebbe una memoria d'elefante, ma noi uomini non ce l'abbiamo. Forse un giorno la inventeranno elettronica, chissà. una scheda piccola come un'unghia che ci infileranno nel cervello, dove è registrata tutta la nostra vita. Antonio Tabucchi, Tristano Muore. E allora, nell'attesa di avere a disposizione questa piccola scheda, dobbiamo contare sulla nostra memoria. 800 24 00 24 se volete seguirci. E professor Iannocari, noi abbiamo già iniziato a proporre un piccolo test di memoria in apertura. Sì. Che era quello relativo appunto al Mi ritorno in mente, del famoso Lucio. Lucio. Ecco. Mentre noi possiamo stimolare i nostri ascoltatori a misurarsi con un altro test. Test, sì. Ecco, io consiglierei un test nuovo rispetto alla memoria. Allora, intanto ricordiamo che di memorie ce ne sono un bel po'. La natura ci ha fornito di almeno una dozzina di memorie diverse. Quella che io proporrei oggi di andare ad allenare è la memoria per i numeri. Visto che la nostra vita è intrisa di numeri, tutto è numero, noi siamo nati in una data, va bene, che è composta da numeri, abbiamo un codice fiscale, abbiamo un indirizzo civico, abbiamo i numeri dei PIN, dei telefonini, eccetera. Allora vediamo come si possono memorizzare. Intanto ci sono almeno 5 strategie diverse, ma io ve ne propongo una particolare, che è quella della costruzione di storie. Cioè, noi utilizziamo i numeri associandoli ad un qualcosa che noi conosciamo, ad esempio il 25 a Natale, il 6 all'Epifania, è quello che vogliamo, oppure il nostro giorno della data di nascita, e poi raccogliamo gli elementi che abbiamo associato a ciascun numero e costruiamo una piccola storia. Facciamo un esempio: se io dovessi ricordare 25, 18, 27, posso associare il 25 ad esempio a Natale, il 18 alla maggiore età, il 27 se vogliamo al giorno in cui si prende lo stipendio. E quindi la frase verrà? Potrebbe essere: il giorno di Natale compirò 18 anni e finalmente potrò prendere il primo stipendio. Quindi fissatevi queste a mente, vale scriverli? Io li ho scritti. Sì, 25, 18, 27. Costruite con questi numeri una storia, cioè legando ogni numero ad un avvenimento, ad una data, ad un'occasione, e poi chiamateci 800 24 00 24, perché l'ascoltatore che ci fornirà per primo una storia interessante, legata, un po' divertente, potrà ricevere a casa Cervello Splendente, gli alimenti che aprono la mente e aguzzano l'ingegno. Ricordi che noi una notte non riuscivamo a dormire, noi trovammo il film Il posto delle fragole sul via Cava, restammo tutta la notte a guardarlo, lo ricordi? Fu una cosa fantastica. Sì. Quello fu uno dei grandi momenti. Oh, quando stavamo andando alla cena di facoltà, e non me lo scorderò mai, noi nella quinta strada, con quella notte buia e gelata, si camminava in centro. E ti ricordi che all'improvviso decidemmo di non andare alla cena e dicemmo al diavolo, e noi, era una notte così bella, siamo entrati nel Central Park e ricordi, era così innevato quella notte, c'era il cielo, si contavano le stelle. Uh-huh. Tu eri talmente bella con quel vestito nero, davvero? No, non lo fare. Perché no? Perché è finita, lo sappiamo tutti e due. Perché sai, tutte quelle cose, quei ricordi sono soltanto ricordi, sono di anni lontani, sono solo momenti isolati, sai, però non raccontano tutta la storia. Ogni ricordo riaccende un'emozione, ma forse il ricordo si è fissato nella nostra memoria proprio perché quando è accaduto ci ha emotivamente colpito. Saluto il professor Paolo Cavedini, che è qui in studio con me, ci ha ascoltato silenzioso, si è appuntato anche lui i numeri suggeriti dal professore Iannocari, se li ricorda? Assolutamente sì, perché li sto leggendo, 25, 18, 27. Voi dovete costruire con questi numeri una storia e ricevere a casa Cervello Splendente, ma intanto professor Cavedini, ricordo che è psichiatra, professore del master di neuropsicologia dei disturbi emotivi e comportamentali dell'Università LUMSA di Roma. Professor Cavedini, tra emozioni e memoria c'è una correlazione a doppio binario che non sempre ci fa gioco, perché dimentichiamo spesso le cose piacevoli e tendiamo a ricordarci quelle spiacevoli, quelle che ci hanno fatto male. Questo in parte ci ha aiutato nell'evoluzione, ma sarebbe bello imparare a usare anche i ricordi belli per lavorare, ad esempio, quando la nostra autostima è un po' in ribasso. Beh, innanzitutto buona giornata anche da parte mia. Allora, Nicoletta, è esattamente così. Tra memoria ed emozioni c'è un collegamento molto stretto. E questo verosimilmente dipende dal fatto che gli eventi emotivamente significativi occupano un posto nella nostra memoria privilegiato. Come dicevamo prima, sicuramente gli eventi negativi ci rinforzano maggiormente che non quelli positivi, perché il rinforzo delle cose negative che ci aspettano, lo diceva prima il collega, da un punto di vista evoluzionistico questo ha un peso molto forte, la parte negativa preme su di noi in maniera assolutamente predominante. È chiaro che se fossimo in grado, e le tecniche che oggi possiamo imparare a rinforzare anche le connotazioni positive dei nostri ricordi, forse potremmo usarle nei momenti più bui, nei momenti di demoralizzazione, per lavorare un po' su di noi, sulla nostra autostima, proprio perché la componente emotiva è estremamente importante. Professore, ma anche i sensi condizionano la nostra memoria, perché lo sappiamo tutti, basta un profumo per farci viaggiare indietro nel tempo, rievocando emozioni, sensazioni, esperienze vissute in momenti e luoghi molto lontani. Quindi, professor Cavedini, se vuoi ricordare, usa le emozioni anche buone, ma usa anche i sensi, annusa, accarezza, gusta, guarda, senti. Sia per consolidare i ricordi che per rievocarli meglio. Noi abbiamo, tra le tante memorie di cui parlavamo, una memoria sensoriale, una memoria in cui le informazioni sensoriali, quindi le immagini, i gusti, i suoni, hanno una loro collocazione per consentirci anche di orientarci in termini di panoramica nei confronti dell'ambiente, ma e soprattutto per quello che dicevi tu, ed è l'esempio classico quando, non so, una musica particolare ci evoca un buon ricordo, per riattingere dal cassetto della memoria le informazioni che colleghiamo a questo tipo di senso. Questo avviene perché quando noi memorizziamo, non memorizziamo in un unico punto del cervello, ma memorizziamo emozioni, ricordi, sensi in diverse parti del cervello, e a volte basta attivarne una per risvegliare tutto quello che è collegato a questo. E, come dire, le strutture che gestiscono la memoria, quindi la componente più emotiva, che è la famosa amigdala, che molti ormai conoscono, diventa sempre una cugina, no? Amigdala sembra ormai l'Aurelia. Se ne parla in tutte le salse, sono i registi un po' di questa associazione. E allora, sul filo dell'emozione e dei ricordi, in linea con noi Alessandro Roia. Ciao Alessandro. Salve a tutti, buongiorno. Uno dei protagonisti del film I più grandi di tutti, l'ultimo film di Carlo Virzì al cinema da oggi. Alessandro, c'erano una volta, circa 15 anni fa, i Pluto, una rock band di provincia. Tu sei il batterista, vero? Esatto, sono il batterista. Ecco, e il film racconta un po' la storia di questo gruppo musicale. Si parte dal passato, dai vostri ricordi, per arrivare al presente. E a proposito di ricordi, abbiamo pensato di sottoporti a questo test. Sei pronto? Sono pronto. Dai. Vado. Ripensa te bambino, il primo giorno di scuola. Due aggettivi per raccontarti. Spaesato, eccitato. Come si chiamava la ragazza che al liceo faceva girare la testa a tutti? Francesca. Non hai detto a caso, eh? No. Ho cercato un po'. La prima volta che hai preso l'aereo, quanti anni avevi e dove sei atterrato? Oh, quanti anni avevo? Credo, faccio una fascia tra i 10, diciamo tra i 9 e i 12, non mi ricordo benissimo. Sono atterrato a Barcellona. Il tuo primo contratto, dov'eri e che vestito indossavi? Ero, quando l'ho saputo, a casa, perché mi hanno chiamato, poi sono andato nella mia agenzia che al tempo mi rappresentava, e credo fosse primavera, quindi vestivo abiti primaverili. Entri in casa e senti un profumo, che è odore di casa. Che profumo è? È quell'indescrivibile profumo che è il profumo di casa, che riconoscerei tutte le volte che torno a casa dei miei genitori. Vai in vacanze, c'è un'immagine che ti colpisce e che per sempre per te significherà vacanza. Che immagine è? È l'immagine del tramonto in una spiaggia particolare, di un'isola particolare. Che non c'era Francesca, però. No, non c'era Francesca, no, non è più legata a mio fratello e ai miei amici. Quando c'è il tramonto, che non hai pensieri per il giorno dopo, quella è vacanza. La prima volta che hai capito che da grande saresti diventato un attore è stata quando? Che ero invischiato in una situazione del genere da piccolino con la scuola, quando sono andato a vedere un recital di mattina e mi rendevo conto che mi ero innamorato del teatro e comunque dell'idea di rappresentare le storie. prima di salutarti, e poi ti faremo un profilo, il professor Iannocare ti dirà come va la tua memoria e anche il professor Cavedini come usi le emozioni e i sensi, ma penso che tu te la sia cavata benissimo. Commenta questa frase: le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere, gli uomini le donne che li hanno fatti piangere. Henri de Regnier. Alessandro, che dici? Che ci sono delle verità sparse in questa frase, ma non delle verità assolute. Allora, professor Iannocari, professor Cavedini, come se l'è cavata Alessandro? Alessandro se l'è cavata egregiamente, è stato colto di sorpresa su delle domande difficili, per cui è riuscito a recuperare in modo brillante le informazioni che aveva in memoria. Abbiamo notato come in alcuni passaggi lui ha ricostruito l'episodio attraverso degli altri indizi, per cui è stato capace di utilizzare la sua rete di memorie, come si diceva prima, visto che le memorie sono tutte collegate e depositate in posti diversi, per arrivare all'informazione che gli serviva, per cui se l'è cavata bene. Professor Cavedini? Beh, ha utilizzato molto bene tutta la parte di emozioni positive, come dicevamo prima, perché la maggior parte delle risposte che ha dato sono state associate a delle belle sensazioni e delle positive immagini. Insomma, sei il più grande di tutti. Alessandro. Ci prova. Grazie ad Alessandro Roia, grazie, protagonista dei Più grandi di tutti, l'ultimo film di Virzì che potete vedere. C'era anche un bambino entusiasta. Noi, è tempo, possiamo sentire un ascoltatore, sì. Giovanna da Torino, buongiorno. Buongiorno, buona Pasqua a tutti. Grazie. Allora, io faccio l'anestesista ma non ho trovato collegamenti in merito. Mi è venuta in mente una situazione molto attuale. La frase, posso partire? Sì. Allora, visti i problemi legati alla polemica sull'articolo 18, si rischia di non arrivare al 27. Niente stipendio e ahimè, niente regali il 25 dicembre. Giovanna, niente regali, scusate, ero emozionata. Ma Giovanna è magnifica, ma cervello splendente ce l'ha, anche una buona così capacità la nostra Giovanna di legare i numeri e di rispondere subito ai nostri test. Ma professor Iannocari, a Giovanna faremo ricevere a casa il cervello splendente, ma ha proprio svolto bene l'esercizio. Molto bene, molto articolato e ricco, e ben collegati i numeri tra di loro con le storie. E quindi grazie a Giovanna che è intervenuta, ma voi continuate a seguirci perché la nostra palestra è aperta. Parleremo di linguaggio, quando non vengono le parole, a volte non vengono i nomi delle persone, degli oggetti, passami il coso, dammi la cosa. Ci sono delle parole che invece non riusciamo proprio a dire o a sentirci dire, e lavoreremo quindi sul linguaggio ma anche sul ragionamento, e il professor Iannocari naturalmente è qui per testare le nostre abilità. Facciamolo lavorare. 800 24 00 24, io non gli apro la porta dello studio fino a quando non ha risposto fino all'ultimo nostro ascoltatore. Essere e benessere. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago e New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica, oddio, non mi ricordo il suo nome. Non ti mettere con me, Joe, ho 26 anni e non mi ricordo nemmeno il nome di una ragazza di cui ero tanto amica da non voler andare col suo fidanzato. E quante volte sarà capitato anche a voi, a me sicuro, di ricordare una persona ma di dimenticare il suo nome? Dove sarà andata a finire? Ho un vuoto di memoria, infatti, si dice, oppure ce l'ho sulla punta della lingua, ma tant'è che da lì sembra proprio non volersi muovere. Ma non sono solo i nomi di persona a darci qualche problema, a volte non ci vengono in mente parole d'uso comune. Un classico: prendi la cosa che devo aprire il coso. Professore Iannocari, quando iniziamo a usare, per stanchezza, pigrizia, distrazione, me lo dica lei, espressioni come ehi per indicare una persona, oppure termini come cosa per indicare gli oggetti, dobbiamo iniziare a preoccuparci oppure niente di grave? Beh, spero di no, altrimenti dovrei essere il primo a iniziare a preoccuparmi. Per cui le anomie, quindi la mancanza della presa della parola quando ci serve, in particolare i nomi propri, capita a tutti e a tutte le età. come si diceva prima, probabilmente la stanchezza, un sonno non riposante, piuttosto che un periodo di stress, possono in qualche modo, diciamo, aumentare la frequenza di questi episodi. Anche non ricordare un nome può essere dovuto al fatto che quella persona non sia particolarmente importante per noi, o semplicemente non la ricordiamo da parecchio tempo, per cui rivederla a distanza di mesi può non facilitare la presa. Ma anche parlando, ci sono delle situazioni in cui proprio la parola non ci viene. Sappiamo quello che vogliamo dire, però ce l'abbiamo lì, no? Il solito fenomeno della punta sulla lingua. Poi quando la mente arriva ad un altro pensiero, la parola ritorna. Sì, è un gioco, è veramente la nostra mente ci fa uno scherzo in questo senso. È come se noi più cercassimo la parola e più quella parola si allontana, ci fa i dispetti. E non a caso la parola sovviene quando poi non stiamo pensando a tutt'altro. Ecco, ma per recuperare, per allenare il recupero lessicale, che cosa possiamo fare? Conversare, parlare? Parlare, ma ecco, io solitamente quando consiglio questo prego sempre le signore di non dire ai loro mariti che sono stato io a suggerirlo. Ma possiamo fare anche degli esercizi, ad esempio. Ad esempio? Ecco, ad esempio io propongo agli ascoltatori di utilizzare una parola, ad esempio mano, bene, e cercare tante altre parole di senso compiuto che messe insieme a mano creino delle nuove parole. Facciamo l'esempio. Per esempio, mano vale. Ok. Quindi le due parole, una mano, no, che l'abbiamo data a noi, l'altra aggiungetela voi, due parole per generarne una terza. È così. E utilizziamo mano e troviamo un'altra parola che messa insieme a mano fa la nuova parola, per esempio mano vale. Quindi mano vale diventa una parola nuova utilizzando la parola mano. Ci sono altre parole che possono essere composte utilizzando la prima parte con mano. Proviamo a chiedere ai radioascoltatori se ci aiutano. Scatenatevi 800 24 00 24 e dato che parliamo di parole, di linguaggio, io ho abbinato a questo esercizio, test, come possiamo definirlo, cambia la tua vita con la TCC, tecnica e pratica della terapia cognitivo-comportamentale di Corinne Sweet Vallardi, editore. Quindi allenatevi, provate, però non basta una, ne chiediamo almeno, perché una l'abbiamo già detta noi, almeno tre. Okay. 800 24 00 24. Ma professor Cavedini, ci sono parole che non riusciamo a dire per altre ragioni, che nulla hanno a che fare con la memoria, parole che non riusciamo neppure a dire a noi stessi, quasi dei blocchi. Qui la memoria non c'entra niente in quanto tale, nel senso che funziona bene, semplicemente i ricordi non vengono rievocati perché sono associati a una forte sofferenza, a un forte disagio, a dei sensi di colpa, e quindi in qualche modo rievocare quell'evento, quella situazione ci metterebbe nelle condizioni di stare nuovamente male. Quindi è un sistema di difesa, una sorta di sistema immunitario della nostra psiche, e questo sicuramente ha una sua funzione utile di protezione, anche se può a volte degenerare in problematiche più ampie che evidentemente diventano patologiche. Abbiamo in linea con noi Marco dalla provincia di Monza, Brianza, e Massimo da Roma. Marco, buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Più che altro la mia non è una frase vera e propria, perché è proprio un discorso, così, un curioso avvenimento che mi è capitato. No? 25 anni fa conosco una bellissima ragazza, proprio bella, no? Non c'erano i telefonini, non potevo prendere nota di numeri di telefono, riesco a farmi dare un numero di telefono e penso, caspita, ora me lo dimentico, come faccio a chiamarla sta ragazza? Quando poi mi dice il numero di telefono, dico, ma che problema c'è? Il numero di telefono, vabbè, a parte il prefisso che non lo dico per motivi di privacy, magari ora il telefono non ci sarà neanche più, era 90 60 90. Veramente? Non potevo non dimenticarmelo. Una vera sventola. Assolutamente. Per cui ho detto, beh, di misure di telefono. Assolutamente sì. Si ricorda il nome di questa? Federica. Sì. 90 60 90, però. Hai capito. Hai capito Marco, che fortuna. Massimo da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ha un'amica Federica 90 60 90 anche lei? No. Ah, no. Va bene. Mi dica Massimo. Buongiorno, io vado un attimo controcorrente. Sì. Ho una domanda ai vostri esperti che sono lì. Esiste qualche metodo, qualche trucco per dimenticare e non per ricordare? Bravo Massimo, perché il mi ritorno in mente non è sempre piacevole. No, io mi ritrovo a ricordare tantissimi episodi, anche lontanissimi nel tempo, come se fossero accaduti ieri, e questo per spesso provoca dei disagi, delle aspettative, delle perplessità molto molto pesanti, no, dal punto di vista psicologico. Allora volevo capire se c'era un qualcosa che potesse permettere una memoria selettiva, nel senso che alcune cose, anche se piacevoli, sì, lei preferirebbe archiviarle in un posto, in un cassetto che rimanga bello chiuso a chiave, ecco, e buttare magari via la chiave. Professor Cavedini, mi spiace scoraggiare il nostro ascoltatore, ma la vedo difficile. Facciamo fatica persino a cancellare davvero i file in un computer, a maggior ragione nel nostro cervello. Il problema qui non mi sembra tanto quello di dimenticare, quanto di, come dire, desensibilizzarci rispetto agli eventi e agli impatti negativi dei ricordi. Quindi ricordare in maniera selettiva no, ma vivere e gestire diversamente quei ricordi così tanto negativi sì. Quindi ripescarli e provarli a vedere sotto un'altra luce, questa e soprattutto potrebbe essere cercare una terapia di valutare turca. Le conseguenze di questi ricordi nel comportamento quotidiano di oggi. Allora, vi abbiamo invitato a creare delle parole nuove partendo dalla parola mano. Mano vale, ci ha suggerito il professor Iannoccari. 800 24 00 24. L'esercizio è semplice, allena il nostro linguaggio, ma dovete dare almeno 3 domande e chiamate per avere a casa il primo di voi Cambia la tua vita, tecnica e pratica della terapia cognitivo-comportamentale. E a proposito di parole, a volte il problema non è trovare le parole ma nessi logici. Quante volte, ad esempio, perdiamo il filo del discorso, no? E diciamo, che cosa stavo dicendo? Oppure, a volte, ci arrovelliamo per trovare soluzioni che non arrivano. È una sensazione abbastanza sgradevole, da cui cerchiamo di uscire dicendo, beh, ho il cervello che mi fuma. Professor Cavedini, spesso diamo colpa allo stress, ma lo stress è nemico del ragionamento? Perché sembrerebbe vero, ma è anche vero il contrario, perché spesso quando siamo sotto pressione, sorprendentemente riusciamo a trovare delle idee brillanti, delle soluzioni. Allora, a chi possiamo dare la colpa e a che cosa possiamo fare per funzionare bene? Allora, sono entrambe considerazioni vere. C'è lo stress amico e lo stress nemico. Questo vale per la memoria come per qualsiasi altra situazione in cui entra in gioco lo stress, che non dimentichiamo, e noi ricordiamolo, è una risposta di adattamento a degli stress o a delle sollecitazioni esterne. Quando avvengono delle sollecitazioni di qualsiasi natura, nel nostro organismo succedono tante cose, ci sono delle reazioni di varia natura, tra cui anche il rilascio di alcune sostanze, per esempio l'adrenalina, la noradrenalina, alcuni ormoni come il cortisolo, che hanno sulla memoria a volte funzioni facilitanti, quindi si associano soprattutto agli eventi che hanno una connotazione emotiva forte, come dicevamo all'inizio, e quindi facilitano il ricordo. Però quando questa risposta è eccessiva, quindi lo stress diventa nemico, allora questi effetti hanno poi delle limitazioni sul richiamo di tutte le informazioni mnesiche già memorizzate. La cosa si complica quando le condizioni stressanti si cronicizzano. Allora a quel punto, come dire, questa situazione va in una sorta di stallo e quindi la componente nemica dello stress aumenta sensibilmente. Professore Iannoccari, ma nelle sedute di ginnastica mentale si allena anche il ragionamento? Beh, è una parola molto grande, ragionamento, no? Che ha diverse sfumature. Quale tipo di ragionamento? Beh, intanto distinguiamo tra ragionamento e logica. Bravo. È questo che volevo. Mi mancava la parola. Mancava la parola. Ragionamento e logica. Il ragionamento ha la peculiarità di mettere insieme tante idee diverse, quindi creare dei collegamenti che prima non c'erano. Sì. La logica invece ha una sequenza, ha una regola e deve arrivare ad una conclusione attraverso, diciamo, appunto questa regola che equivale al se, allora, quindi. Va bene, c'è una premessa, c'è uno sviluppo. Quindi ha un po' la strada segnata, la logica, no? C'è quasi un percorso battuto, sì. Mentre il ragionamento è un po', no, più creativo, quasi più l'improvvisazione del jazz, no? Del jazz, sì, infatti, e molte volte viene spesso associato anche all'intelligenza quella fluida, cioè quella che ci consente di fare dei collegamenti tra informazioni anche lontane. Questa abilità, ecco, la notizia buona è che questa abilità può essere sviluppata anche attraverso degli esercizi, ad esempio. che si possono trovare ormai anche su internet, ci sono tanti esercizi, ma lei un esercizio, una strategia ce la suggerisce subito, perché così io poi vado a salutare Bruno che ci chiama da Milano. Professore, sì. Una strategia per tenerci un po' la mente attiva, capace di fare queste connessioni, queste deduzioni. Sì, ma ad esempio possiamo proporre anche un esercizio, sì. Una proposizione. Sì. Facciamo per esempio: frutta sta a melone, come tubero sta a... Allora, le risposte possibili sono per esempio verdura, limone, patata. Cioè, quale di queste tre parole conclude la proposizione? Lo chiedo subito a Bruno da Milano, così vedo se come è il suo livello di attenzione. Bruno? Buongiorno. Buongiorno, lei è stato attento? Sì, io sono molto attento e mi piace la vostra trasmissione. Allora, Bruno, stia lì, perché Carmelo Lauricella mi sta dicendo che io devo dare la linea ai mercati. Bruno, rilegga Bruno, che così testiamo subito la cosa del tubero e della patata. La frutta sta al melone? Come il tubero sta a... Le risposte possibili sono verdura, limone, patata. Essere e benessere. Ci siamo tornati insieme, ma forse Bruno è scappato. Professor Iannocchiari, ha fatto un test troppo difficile e quindi alleniamoci noi. Quindi il senso di questo esercizio che ci aveva proposto, questo della frutta e del melone, qual è? È la patata. È la patata. È il tubero è la patata, sì. Allora, noi sino ad ora, intanto voi continuate a chiamarci 800 24 00 24, cercate delle parole partendo da mano per allenare un po' il nostro linguaggio. Noi sino ad ora ci siamo occupati del cervello, ma come sappiamo, per fortuna non ne abbiamo solo uno. Nella nostra pancia vive e lavora un secondo cervello di cui a volte ci dimentichiamo di prenderci cura, ma questo credo che non sia un problema di memoria. In ogni caso, segnatemi un appuntamento in agenda, o anzi, come suggerisce il professor Iannocchiari, magari tenetelo a mente. Aprile è il mese dell'intestino sano, un'iniziativa con il patrocinio della Fondazione ADI, che è l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, e in linea con noi abbiamo il presidente, il professor Giuseppe Fatati. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, allora, di questo secondo cervello fa abbastanza le cose che fa l'altro, quello in alto, perché ragiona, giusto, a memoria e ha un suo linguaggio, quindi insomma da questo punto di vista sono abbastanza simili. Sì, sono abbastanza simili, è un cervello di cui spesso ci dimentichiamo, perché per molto tempo della nostra giornata, o per molti di noi, è abbastanza silente per gran parte della giornata, però ogni tanto ce ne dimentichiamo quando ci dà dei piccoli segnali o dei piccoli, chiamiamoli così, rumori, che sono in realtà il suo modo di fare linguaggio e di avvertirci che c'è qualcosa che non va. Adesso questo cervello è importante perché, come ha detto lei, ha una memoria, interpreta i nostri dati, ma è anche in grado però di farci stare bene o farci stare male. Non interpretare il linguaggio del nostro intestino vuol dire spesso vivere, avere una qualità di vita peggiore, perché noi diamo spesso poco peso ai fastidi dell'intestino, soprattutto ai fastidi del colon irritabile, di tutte quelle patologie funzionali che non sono delle vere e proprie malattie, lo ascoltiamo poco, però poi la qualità della vita e la nostra capacità di metterci in relazione con gli altri ne viene fortemente disturbata, perché avere dei rumori fastidiosi così di pancia o dei malesseri mentre stiamo parlando con qualcuno sicuramente ci crea una qualità della vita e ci aumenta lo stress, e guarda caso lo stress va a rincidere di nuovo su questo secondo cervello, peggiorandone ancora la situazione. Quindi dobbiamo sicuramente ascoltarlo di più, dargli un pochettino più retta e quindi dare un pochettino più di attenzione alla nostra qualità di vita. Cerchiamo di vivere meglio. Ecco, è un mese a disposizione, il mese dell'intestino sano, e abbiamo a disposizione anche un sito, vero professor Fatati? Sì, c'è un sito, questa è un'iniziativa che ormai ha compiuto 5 anni, è un'iniziativa voluta dalla nostra associazione in collaborazione con la Yakult, c'è un sito che è il sito dell'intestino, ci si può andare tranquillamente e saremo in 15 o 20 città d'Italia, dura tutto un mese. E insomma, direi, approfittiamone. È un appuntamento da non perdere. Da ricordare. Professor Fatati, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. E noi andiamo da Edda, che ci chiama da Varese. Buongiorno Edda. Buongiorno. Io sono telefonata per le parole, con dai, mano. Con mano. Allora, io ho trovato manovella, manometro, manomesso, manoscritto. Benissimo. Bene, è stato produttiva. Produttiva con le parole, lei come si comporta? Come allora, io devo dire, per quanto riguarda la memoria, perché è una cosa che mi interessa tanto, io sono appassionata, sì, che mi hanno detto che con l'età la memoria in effetti me ne accorgo anch'io diminuisce, quindi cerco di fare molte sì. Nonostante questo, comunque io mi sono ritrovata molto su quello che avete detto voi, non so, quando si parla anche di fatti giornalieri, dimenticarsi il nome di una persona che si è vista magari il giorno prima. Ricordarsi magari anche il viso, ma non esatto, il nome, ma certo. Perdere proprio la parola, cioè Edda, Edda, siamo veramente un grande club, perché ci ritroviamo. Intanto cambia la tua vita con la TCC, io l'ho letto, è un libro molto interessante e sì, sono certa che le sarà utile. Noi continueremo ad allenarci con i consigli dei nostri esperti, proveremo almeno a cercare di avere una memoria un pochino, no, più pronta, ma ci sono tante altre situazioni in cui noi riusciamo, ad esempio quando dobbiamo fare il PIN del bancomat. A me capita che se non lo azzecco subito inizio e poi mi si blocca naturalmente il bancomat, perché digitando più volte il numero sbagliato. In quelle situazioni è come se ci fosse proprio uno squarcio. Come mai, professor Iannoccari? Noi, se non ci viene in mente subito, che cosa dobbiamo fare? Stop, fare altro e recuperare? Ha la stessa funzione della ricerca delle parole. Quando non viene un'informazione è inutile accanirsi, perché probabilmente in quel momento sta facendo i capricci. O abbiamo utilizzato ad esempio due diversi modi per memorizzare il PIN. Uno può essere il disegno che creano i numeri sulla tastiera, sì, no? È la forma geometrica. L'altro ad esempio può essere il jingle, il motivetto che noi facciamo quando componiamo il numero, per esempio 76554. Ma lei ha anche delle cose che hanno, l'ha sentita professor Cavedini? Sto aiutando anche con la voce. Allora, noi abbiamo Federico che ci chiama da Treviso. Federico, buongiorno. Salve, buongiorno. Mi dicono che lei ha trovato non tre, ma più nomi con le mani, la mano. Sì, con la mano, scorrimano, manopola, pallamano, è un gioco. Sì. E poi anche la mano morta. La mano morta. Senta Federico, allora, è stato carino, perché è stato anche un creativo. Questa mano l'ha messa prima, dopo, e l'ha fatta anche morire. Federico, allora, per lei il vademecum, vivere almeno 100 anni, linea guida per una sana longevità, di Assoma Insana. Lei non ne ha bisogno, ma insomma, mettiamo tutto serve. Grazie a Federico che è stato con noi. Buona giornata. Grazie al professor Cavedini, al professor Iannoccari, a voi che ci avete seguito, motivato, ascoltato, chiamato, continuate a farlo. Abbiamo il nostro profilo Facebook, sempre per voi. Vi ricordo domani, domani a Mangia con me, preparatevi, perché domani si mangia insieme. Un nuovo caso, e quindi vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad andare sul nostro sito, c'è il questionario da compilare, compilatevelo, vi conviene. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.